Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Buongiorno a voi cari ascoltatori, sono le 11.07, è arrivato il momento di occuparci di noi, della nostra salute. Prima di passare subito ai temi del giorno, nel frattempo se ce n'è qualcuno che vi sta particolarmente a cuore, io vi consiglio già di iniziare a prenotare le vostre chiamate all'800 24 00 24. Voglio ringraziare in regia la parte tecnica Giorgio Matè e Laura Vanossi in redazione. Allora via ai temi del giorno. Nemici dell'orecchio e nemici dell'udito. Se li conosci, li metti KO. Zolfo, un minerale prezioso per la salute della nostra pelle. Surgelati, istruzioni per l'uso. L'orecchio è un organo, l'udito un senso, così ci insegnavano le maestre quando eravamo piccole. Queste saranno le due parole chiave della trasmissione di oggi. L'orecchio può far male, l'udito può calare. Niente paura, perché per fortuna le soluzioni ci sono. Allora oggi proveremo a individuare i fattori di rischio, parleremo come sempre facciamo di prevenzione e anche di terapia. Quindi se siete delicati d'orecchio, se vi basta ad esempio il classico colpo di freddo per prendervi un'otite, se il vostro orecchio si tappa non solo quando salite in montagna ma in momenti della giornata che non vi tornano tanto, se vi pare, perché può capitare, che il vostro udito in situazioni particolari non sia più quello di una volta, insomma fate un po' fatica, restate con noi. Il nostro numero verde è a vostra disposizione, ve lo ricordo, 800 24 00 24. I messaggi al 349 238 6666. Oggi in linea con noi abbiamo il professor Carlo Antonio Leone. Buongiorno professore. Buongiorno a lei e a tutti i radiospettatori. Sì, radioascoltatori. Radioascoltatori. Direttore dell'unità, anch'io prendo fiato e spero di non inciamparmi nella sua qualifica, direttore dell'unità operativa complessa di otorino laringoiatria e centro di riferimento regionale per le sordità profonde e gli impianti cocleari all'azienda ospedaliera ad alta specializzazione Monaldi di Napoli. Allora, professore, ce l'ho fatta. Allora, torniamo all'argomento di oggi, orecchio e udito. Oggi vogliamo proprio costruire la puntata intorno a questi due termini. Quindi parleremo delle patologie che possono interessare le parti del nostro orecchio e anche delle condizioni, delle situazioni che invece possono compromettere la salute del nostro udito. Noi le abbiamo tenute queste due parole disgiunte, quasi un gioco, perché in realtà questi due mondi non sono separati ma hanno delle connessioni molto strette, vero professore? Assolutamente, diciamo che mentre l'orecchio rappresenta l'organo e con le sue strutture che sono deputate a raccogliere le informazioni sanare e inviarle poi al cervello, questo organo per intero serve proprio per consentirci di sentire, quindi ci consentirà, dopo un'analisi molto dettagliata, come vedremo, di tutte le informazioni sonore del mondo che ci circonda, di darci quelle informazioni che ci consentono poi di comunicare. Quindi è un organo e una funzione decisamente molto importante, soprattutto per la vita di relazione. Professore, proviamo a elencare i disturbi più frequenti e anche a localizzare la loro sede. Noi sappiamo che l'orecchio è composto da tre parti e ciascuna ha i suoi punti deboli, no? Assolutamente corretto, e questa suddivisione anatomica in tre parti, cioè orecchio esterno, orecchio medio e orecchio interno, ci aiuta anche a distinguere un pochettino i sintomi. Sì. L'orecchio esterno è rappresentato dal padiglione auricolare e dal condotto uditivo esterno. Come funzione ha quella di raccogliere e invogliare i suoni verso la membrana timpanica, e i sintomi che più frequentemente lamenta il paziente quando esiste una patologia infiammatoria a questo livello sono rappresentati dal prurito, che molto spesso è il sintomo sentinella, poi dal dolore e talvolta anche da secrezione. Naturalmente quando la secrezione è abbondante possiamo avere un effetto di tappo operato dalla secrezione stessa e quindi anche un abbassamento della funzione uditiva. Questa patologia è più frequente nel periodo estivo, perché in realtà sono patologie che interessano la pelle del condotto, quindi soprattutto per chi frequenta la piscina o va a mare, o soprattutto utilizza in maniera non corretta i cotton fioc o qualunque cosa all'interno dell'orecchio. Per l'igiene dell'orecchio, di cui parleremo. Sono naturalmente i più colpiti da questa patologia. Per quanto riguarda invece l'orecchio medio, è quella parte, quella è una camera molto importante, che ha la funzione non solo di raccogliere il suono, ma soprattutto quello di amplificarlo, grazie alla presenza di tre ossicini, sono tre piccoli ossicini che rappresentano delle leve che potenziano l'energia sonora per inviarla all'orecchio interno. Quindi questo ha un ruolo centrale, questa parte dell'orecchio, nella trasmissione del suono, poiché è una camera praticamente con un'unica finestra, che è la tuba di Eustachio. Qualunque patologia che coinvolge questa struttura, che appunto viene definita tuba di Eustachio, che prende l'aria da dietro al naso per inviarla all'orecchio, quindi ha una funzione non solo di areazione di questa stanza, quindi è in grado di compensare la pressione che c'è all'interno dell'orecchio rispetto a quella che c'è all'esterno dell'orecchio, ma anche una funzione di protezione e anche una funzione di drenaggio. Anche la secrezione che fisiologicamente si forma nell'orecchio medio, grazie alla produzione delle ghiandole che ci sono sulla mucosa dell'orecchio medio, vengono drenate attraverso un battito ciliare verso il rinofaringe. Questo è importante perché fa capire come qualunque processo infiammatorio che interessa le prime vie aeree interesserà, ahimè, anche l'organo dell'udito. Proprio per questa sorta di finestra, mi piace. Esattamente. L'abbiamo visualizzato, una stanza con una finestra, perfetto, da cui entra aria e non solo. Perfetto. Quando il processo infiammatorio chiude questa finestra, manca la reazione, per cui all'interno si viene a creare una pressione negativa per il riassorbimento dell'ossigeno e quindi un trasudato, poi un essudato, che riempendo l'orecchio medio impedisce a questa struttura di svolgere la sua funzione amplificante, per cui il paziente ha la sensazione di avere un orecchio chiuso. Naturalmente, se noi non terapizziamo in maniera corretta e veloce questo tipo di patologia, la secrezione può infettarsi e creare quindi un'otite media purulenta, la quale naturalmente, non potendo forzare le strutture ossee che costituiscono le tre pareti di questa stanza, sono purtroppo devono rompere la membrana timpanica, che è l'unica parete, la quarta parete più fragile di questa stanza, che con la pressione si rompe, per cui noi abbiamo la secrezione, cioè l'otorrea, la fuoriuscita dall'orecchio esterno di secrezione, talvolta purulenta, talvolta mucoide e sierosa. Che spaventa molto. Che spaventa molto e che ci testimonia una lesione della membrana timpanica, che grazie alla natura si rimette a posto in maniera assolutamente perfetta se noi terapizziamo in maniera precoce. Ecco. Altrimenti possiamo avere degli esiti di queste patologie infiammatorie che poi portano alla perforazione della membrana timpanica e quindi si trasforma un'otite che viene definita acuta in un'otite che viene definita cronica. Viene definita cronica perché non può più guarire spontaneamente o col trattamento. Proprio perché non abbiamo dato modo al medico di intervenire precocemente. E arriviamo al cuore dell'orecchio, l'orecchio interno. Il cuore funzionale dell'orecchio è l'orecchio interno. Nell'orecchio interno noi abbiamo delle strutture che sono in parte deputate alla funzione uditiva e in parte deputate a contribuire a mantenere la stazione eretta nello spazio, quindi a mantenere l'equilibrio nello spazio. Le strutture dell'orecchio interno deputate alla funzione uditiva sono la coclea, l'utricolo e il sacculo. La coclea ha un ruolo fondamentale perché rappresenta il trasduttore che ci consente di trasformare l'energia sonora, che è un'energia meccanica, in energia bioelettrica, cioè proprio a livello cocleare che il messaggio viene trasformato in energia chimica che consente attraverso il nervo e le varie stazioni troncoencefaliche di raggiungere poi la corteccia cerebrale e decodificare il messaggio. Insomma, volendo, è lì che c'è il traduttore. È lì che c'è professor il traduttore. Leone. È un pochettino quando noi accendiamo un interruttore, esercitiamo una forza sull'interruttore. L'interruttore muove un relè e questo relè invia poi, consente il passaggio dell'elettricità. Oltre che questa trasformazione, già c'è a questo livello un'analisi, per esempio le frequenze vengono già analizzate a questo livello, grazie a una distribuzione cosiddetta tonotopica, un po' come i tassi del pianoforte. Da una parte ci sono le frequenze acute, da un'altra parte ci sono le frequenze gravi e in mezzo le frequenze medie. Professor sì. Leone, sì. L'orecchio è un mondo. Lei ci accompagnerà in questo mondo di cui lei è innamorato e che noi speriamo sia sempre in perfetta armonia, perché sennò sono dolori e in qualunque modo, a proposito di dolori, tra poco insieme al professor Leone parleremo di uno dei disturbi più frequenti. Il professor Leone l'ha citato, abbiamo visto che può avere due sedi differenti, parliamo di otite. Ci sono delle persone che hanno otite che si ripetono, basta un colpo d'aria, un tuffo in piscina, soprattutto i bambini. Adesso sono iniziate le scuole, il timore di molte mamme è che il bambino torni a casa con il mal d'orecchio, e non parleremo solo di otite, ma intanto 824 0024, il professor Leone rimane con noi, visualizziamo quindi il nostro orecchio, visualizziamo soprattutto il problema che il nostro orecchio, il nostro udito ci dà, per riferirlo al nostro esperto. Una mela al giorno. Se io vi dico zolfo, voi a cosa pensate? Ma soprattutto lo utilizzereste, lo state utilizzando? Torniamo a parlare di zolfo, ne abbiamo parlato circa una decina di giorni fa insieme al professor Monti, professore dell'Università degli Studi di Milano e responsabile dell'unità di dermatologia di Humanitas di Rozzano. Professore, buongiorno. Buongiorno a tutti. Torniamo a parlare di zolfo, perché devo dire che la sua intervista sulle proprietà dello zolfo, parlavamo di pelle, abbiamo visto che lo zolfo è amico della nostra pelle e serve in tante situazioni. La curiosità dei nostri ascoltatori è salita e allora il professor Monti è tornato a trovarci. Professore, allora, come mai lo zolfo piace alla nostra pelle? Piace alla nostra pelle perché la nostra pelle è fatta in gran parte proprio da questo elemento, lo zolfo. Le proteine della pelle sono formate da amminoacidi, e l'amminoacido più rappresentato è la cisteina, che contiene lo zolfo, e quindi lo troviamo nei capelli, lo troviamo nelle unghie e lo troviamo nello strato corneo che riveste tutta la nostra pelle. Però ricordiamo che lo zolfo è anche un elemento essenziale per la nostra esistenza. Senza zolfo noi non possiamo sopravvivere, e anche gli animali, anche per gli animali così, ma per la pelle è importantissimo. Presso il vostro centro avete proprio utilizzato lo zolfo, delle applicazioni di zolfo per curare alcune patologie in cui si è dimostrato particolarmente interessante, no? L'avete applicato ad esempio per la terapia per i funghi della pelle, noi li chiamiamo così, professore. Sì, certo, perché lo zolfo poi ha una serie di proprietà incredibili e anche molto varie. Per esempio è un bel fungicida, un prodotto che uccide i funghi o che li manda via, si usa anche in agricoltura ovviamente. Noi l'abbiamo un pochettino riscoperto perché adesso ci sono delle creme in commercio che contengono degli zolfi molto, in forma molto attiva, e preferiamo questi ai normali farmaci antimicotici. Questo per mandare via i funghi da tutte le parti, o anche per prevenire, perché ha anche un'azione di prevenzione dell'infezione fungina. Ma non serve solo a questo, perché è anche un ottimo riducente, quindi è in grado per esempio di bloccare la desquamazione di malattie importanti come la psoriasi, la dermatite seborroica, la forfora del capillizio per esempio, per scendere in cose magari anche un pochettino più banali. E quindi è un po' una riscoperta, perché poi lo zolfo in queste applicazioni veniva usata fin dall'antichità, insomma. Ma voi l'avete riscoperto, perché chi dice zolfo noi pensiamo solo alla classica saponetta, invece ci sono altri modi, altre applicazioni, professore? Sì, in realtà forse quasi tutti conoscono lo zolfo come sapone allo zolfo, e quella è l'applicazione invece meno utile, perché si sa che se noi usiamo un sapone poi lo sciacquiamo, e quindi lo zolfo e il sapone stesso se ne va via nel lavandino, insomma. È meglio usarlo in crema e farlo applicare in modo che venga proprio assorbito, a compenetrare nello strato corneo, nelle unghie e anche sui capelli, e lì dà le sue funzioni terapeutiche. Sull'etichetta dobbiamo leggere zolfo, e ci sono delle altre indicazioni? Lei faceva riferimento a delle creme a base di zolfo. Sì, bisogna... sì, l'indicazione principale da leggere è zolfo colloidale. Cosa vuol dire zolfo colloidale? È una formula molto minuta, diciamo, i colloidi sono dispersibili nell'acqua, ecco. Quindi la molecola è talmente piccola che può penetrare, mentre gli altri tipi di zolfo che si usavano in passato in realtà erano formulati in modo non colloidale e quindi non penetravano, quindi avevano uno scarso effetto. Adesso invece è diventato molto molto efficace come prodotto e noi lo sostituiamo spesso ai farmaci, anche al cortisone. Per esempio, prima ho sentito parlare dell'orecchio esterno, della dermatite così diffusa, chiamata l'eczema dell'orecchio esterno. Anche lì, per esempio, svolge un'azione... Una cremina allo zolfo colloidale e il prurito va? E il prurito e la secrezione e tutto quello che è il tappo se ne va via completamente. Quindi è bene tenerla nel nostro armadietto, professore? Ci sono delle controindicazioni però? Ma le controindicazioni sì, ci sono. Lo zolfo, se si esagera, diventa un irritante, quindi bisogna mettere sempre poco perché è molto efficace, eccetera. La vera controindicazione, se vogliamo, è l'odore, perché lo zolfo combinato ha un odore non tanto gradevole, ecco, di acqua solfure, sì. come quelle termali, insomma, certo. Ecco, tutto lì. Però a parte l'odore la sua funzionalità è incredibile. Funziona. Grazie professor Monti per essere stato con noi, ci grazie. Sentiamo presto, buona giornata. Grazie a voi, grazie. Pronto soccorso. Disturbi dell'orecchio, disturbi dell'udito, riprendiamo il tema di oggi. Se le vostre orecchie vi danno dei problemi, 800-24-0024. Oggi ci aiuta il professor Carlo Antonio Leone e in linea con noi abbiamo Mario, ci chiama da Trento. Buongiorno Mario. Buongiorno Nicoletta, sei brillante veramente nella tua trasmissione, complimenti. Grazie Mario. Veramente, veramente, tutte le volte che posso l'ascolto. Ecco, il mio problema è questo qui. Cioè, l'anno scorso, nella primavera del 2007, erano già 3-4 anni che dall'orecchio sinistro mi veniva fuori un liquido. Andai da diversi, non medici, proprio professori universitari, no? E nessuno seppe dirmi, dice, ma è una cosa naturale. Invece l'anno scorso mi davano delle gocce, che delle gocce che sopra c'era disegnato un orecchio proprio, eccetera, no? Ancora sì. Lì si fermava, ma poi dopo... L'anno scorso invece, verso il mese di aprile, mi si è formata tutta un'infezione e mi faceva male proprio l'orecchio. Allora sono andato all'ospedale, eccetera, pronto soccorso, sì. E mi hanno detto che era un'otite media. Un'otite media, l'hanno curata? Me l'hanno curata con gli antibiotici, eccetera, no? Ecco, no. Dopo 4-5 mesi che mi è venuto questo qui, che non mi veniva più né fuori né liquido, eccetera, sì. Una notte, erano intorno alle 2:30 di notte, diciamo così, no? Sì. Ero sveglio così praticamente che ascoltavo la radio, eccetera, e mi venne un capogiro, ma io non so se chiamarlo capogiro, come uno che dentro il cervello mi avesse dato una mitragliata, sì. Insomma, mi presi un colpo proprio così allo stomaco, perché pensavo che fosse un ictus, pensavo sì, che fosse... Sì, ha detto è venuta la mia ora, invece no, era l'orecchio. Allora io praticamente, siccome che 5 anni fa ho subito un rovinoso sì. infortunio, che sono stato operato alla spalla, sì. Ho preso un grande spavento e ancora me lo sto portando dietro, e adopero dei medicinali tipo benzodiazepine, sì. Diciamo Tavro, così, per stare un po' calmo, eccetera, no? Sì. E allora ho preso subito due di quelle, un po' mi sono calmato, però ho telefonato all'ospedale. Senta Mario. Detto, ma no, dice, è un attacco di panico. Sì, tranquillo. Allora, vediamo se il professor Leone, con i numerosi dettagli che ci ha fornito Mario, riesce a dare qualche indicazione. Mario, adesso le sue orecchie come stanno? Alla labirintite. Allora, professor Leone, abbiamo un orecchio che aveva un po' di liquido, abbiamo avuto un'otite media, adesso abbiamo la labirintite. Sono le facce di uno stesso problema? Sono naturalmente il paziente che abbiamo appena ascoltato aveva una patologia che interessava l'orecchio medio, che dopo un po' di tempo è stata terapizzata. Poi ha avuto un episodio che spesso è collegato anche all'otite media in fase acuta, ma può anche essere un episodio che non ha collegamento con il processo infiammatorio che aveva raccontato in precedenza, se questo episodio si era completamente risolto con la terapia consigliata. Invece i segni tipici che ci ha raccontato di questo episodio che ha avuto durante la notte, il sonno, durante sì. il periodo serale, è tipico di una labirintite. cioè di un processo infiammatorio che ha colpito l'orecchio interno e in particolare le strutture che sono i canali semicircolari che sono deputate al mantenimento dell'equilibrio. Ma è colpa dell'otite media che poi in qualche modo ha scatenato la labirintite oppure il nostro se ascoltatore il processo infiammatorio otitico non è si stato era già curato risolto, bene? Sì. Se il processo otitico si era già risolto difficilmente può essere messo in collegamento con l'otite media che ha avuto. Se invece il processo non era completamente guarito, attraverso le strutture dell'orecchio medio, il processo infettivo può raggiungere il labirinto e scatenare una labirintite. Abbiamo in linea con noi Flavio da Pordenone, sulla labirintite torneremo insieme al professor Leone. Flavio, buongiorno. Sì, buongiorno. Flavio, io devo dirle che ho gli aggiornamenti dei mercati finanziari, il meteo, poi abbiamo un aggiornamento del nostro GR Salute e se lei mi aspetta o se... pagate voi, quindi io sono qui. Va bene, allora vuole anticipare. Allora aiutiamo anche il professor Leone, anticipiamo rapidamente la sua domanda. Ecco, io sono istruttore subacqueo, sì. Ho qualche problema con la dermatite e questa mi hanno detto che è causa di otite esterna. Allora, quando vado a fare i viaggi e entro in ambiente marino che è altamente aggressivo, noi subacquei sperimentiamo varie cose. Tra le ultime che ho sperimentato è questa soluzione di acido acetico e acetato di alluminio. Sembra funzionare. Qual è la spiegazione logica di questo e come posso in futuro evitare in maniera non cruenta di adoperare dei prodotti che possono essermi utili? Per risolvere questo problema. Per il prurito e per l'otite, vero? Sì. Grazie Flavio. Prima di continuare il tema del giorno, voglio salutare il professor Scafato che è in linea con noi, direttore dell'Osservatorio Nazionale Alcol dell'Istituto Superiore di Sanità. Buongiorno. Buongiorno a tutti voi. Grazie per essere con noi, perché domani in tutti i negozi, no? Vendono i locali dove sono in vendita alcolici, quindi bar eccetera, verranno esposte delle tabelle per il tasso alcolemico che sono già state soprannominate tabelle antisbronza. Quindi un'informazione in più che si dà al consumatore per aiutarlo a non alzare il gomito e quindi non incorrere in rischi per la sua salute e per quelli degli altri. Altri anche molto seri. Professor Scafato, leggiamo insieme queste tabelle, sono semplici da consultare e andrebbero lette prima di consumare o dopo? Ma prima di tutto c'è l'invito alla lettura, perché non guasta, soprattutto a pensare effettivamente a quello che si fa, soprattutto a riflettere a quanti bicchieri si consumano. Non sono difficili perché ogni persona focalizzerà l'attenzione sul proprio peso, sulle proprie condizioni, non leggerà la tabella per intero, quindi riguarderà solo una casellina. È una questione di buon senso, il messaggio generale sarebbe: mi raccomando, quando ci si pone alla guida non bere, se si deve lasciare la chiave a qualcun altro, insomma. Certo, quindi questo è un invito, un aiuto per renderci più informati e consapevoli. Diciamo per favorire quelle scelte informate. Oggi si parla di centralità del consumatore. Tutte le istituzioni lavorano per far sì che effettivamente il consumatore sia al centro delle proprie scelte. Quindi questo favorisce l'informazione. Non dice di non bere, non nega, dice semplicemente, porge gli elementi di giudizio che servono appunto al guidatore per poter essere sobrio una volta poi che si mette alla guida. Oppure in caso contrario, qual è la sua alcolemia a fronte del consumo di una bevanda alcolica con un determinata, diciamo, di una determinata gradazione. È un'informazione che sicuramente sarà utile perché spesso perdiamo un po', no, la consapevolezza, il polso di quello che beviamo, soprattutto se abbiamo la sensazione di, come diciamo noi, ma io l'alcol lo sopporto, lo tengo, no, professore? Ahimè, le tabelle dimostrano l'esatto contrario. Una ragazzina di 45 kg di peso con una birra a 8 gradi raggiunge già lo 0,5, quindi devi fare attenzione. Soprattutto tener conto che quando lo stomaco è vuoto l'alcolemia chiaramente schizza immediatamente a valori pieni, mentre lo stomaco pieno dimezza ovviamente i valori di alcolemia. Quindi prima indicazione, se si desidera consumare, cerchiamo di recuperare quella bella abitudine della tradizione mediterranea che consisteva nel gustare le bevande e non nell'usarle, soprattutto i pasti. Professore, grazie per essere stato con noi, quindi occhio alla tabella. Buona giornata, professore. Buona giornata a presto. A tutti. Salve, grazie. E noi, professor Leone, torniamo a noi. Avevamo una risposta in sospeso per il nostro amico che ci chiamava da Pordenone. I sub spesso lamentano otiti, no? Assolutamente. Mm. Soprattutto otiti esterne. Sì, che non sono tanto pericolose però. Che non sono tanto pericolose, ma molto fastidiose. Talvolta addirittura non consentono più la discesa subacquea. Questo perché? Perché l'eziopatogenesi, cioè le cause dell'otite esterna, che abbiamo detto è un processo infiammatorio che coinvolge l'intero strato cutaneo del condotto uditivo esterno, ha due fattori predisponenti, che sono i traumi locali, quindi quando noi ci andiamo a grattare con strumenti rigidi all'interno del condotto, e l'umidità. E proprio l'umidità crea, così come naturalmente l'acqua, indebolisce le difese tipiche della cute, altera il pH tipico della cute, e tutto questo favorisce l'infezione, quindi favorisce l'invasione da parte di batteri quali stafilococchi, streptococchi, ma talvolta anche pseudomonas aeruginosa, cioè batteri difficilmente eradicabili, e provocando tutti quei sintomi che abbiamo detto: prurito, dolore, senso di vattamento, secrezione. Quindi l'obiettivo che noi dobbiamo raggiungere è quello innanzitutto di eliminare l'acqua nella fase acuta, quindi evitare anche l'acqua della doccia, non solo l'acqua della piscina o l'acqua del mare, ma evitare che l'acqua penetri nel condotto, e poi utilizzare delle sostanze che sono antibatteriche per sconfiggere l'infezione che poi sta alla base di questo processo infiammatorio. Per quindi, questo sì, i prodotti che stava utilizzando il Flavio da Pordenone sono proprio dei prodotti che hanno una capacità antibatterica. Se io metto una sostanza acida, quindi altero il pH, il batterio tende ad essere sconfitto. Quindi i lavaggi auricolari con queste sostanze danno sicuramente un effetto benefico, perché un po' sterilizzano il condotto uditivo esterno. Quindi Flavio si sta comportando benone. Sì, bravo, direi Flavio. Che il prodotto che le hanno consigliato, che è un prodotto galenico, è sicuramente efficace. È ovvio che li consiglierei a Flavio, se fa questo spesso, anche di fare delle attività preventive, cioè dei lavaggi auricolari con queste sostanze acide come l'acido borico, eccetera, in soluzione alcolica e non acquosa. Mm. Sicuramente possono prevenire le infezioni, per cui lui va a fare la sua attività subacquea e quando torna la sera a casa si lava l'orecchio con questa soluzione, che è una soluzione. Professore, anche lei fa sub? Anch'io, ecco, perché l'ho sentita particolarmente vicino. Ma anche perché purtroppo è una patologia frequentissima. Ma queste cose che lei suggerisce ai suoi amici sub vanno bene anche a chi sub non lo fa, ma spesso le otiti? Assolutamente. Quindi sì, basta, quindi è sì. Opportuno aiutare l'orecchio a difendersi disinfettandolo. Soprattutto nei soggetti predisposti. Prima sentivo il dermatologo che diceva appunto tutte quelle dermatite esematose possono colpire anche la cute del condotto. Quindi anche in questo caso la prevenzione con sostanze con zolfo o prevenzione con sostanze antibatteriche sono sicuramente utili per evitare la recidiva di questa patologia, che è molto fastidiosa, e loro lo sanno, chi soffre di questa patologia lo sa. Marisa da Monza, 824-0024, poi abbiamo Fausto da Bergamo, Francesco da Milano, Anna Maria dalla provincia di Modena. Marisa, buongiorno. Buongiorno a lei. Ci racconti, che succede? Mio marito, 66 anni, soffre di un'otite purulenta con la perforazione del timpano da quando era piccolo, bambino, e ha questa sordità che adesso è accentuata e siamo a zero. Niente, lui chiaramente ha fatto tutte le sue visite, prende sempre queste gocce di antibiotico per curare l'infezione, ha provato anche a fare dei lavaggi con acido acetico che è stato consigliato. Niente. Esatto, niente. Quello che vorrebbe sapere è se deve tenersi questa, deve rassegnarsi a questa sordità o se si può fare un qualcosa. Grazie Marisa. Professor Leone. Assolutamente non si deve rassegnare. Oggi ricordiamoci, questo lo diamo come informazione, che la sordità è sicuramente stata sconfitta, quindi anche i sordi profondi, quelli che non sentono da nessuno dei due orecchi, oggi possono sentire, è l'unico organo di senso che la tecnologia e la medicina è riuscita a ripristinare grazie anche all'impianto cocleare nei sordi profondi. Nel caso invece del marito della signora Marisa, lui ha un'otite cronica, quindi essendo cronica si sono venute a creare delle situazioni che non sono più risolvibili con la terapia medica. Quindi non servono i farmaci, le gocce. La terapia medica serve per evitare le reinfezioni, come sta facendo con gocce antibiotico, ma quello che io consiglierei al marito della signora è quello di effettuare un esame TAC, cioè una tomografia assiale computerizzata dell'orecchio medio e delle cavità paratimpaniche, per escludere che oltre la perforazione abbia un colesteatoma. Che cos'è il colesteatoma? Il colesteatoma è un tumore benigno dell'orecchio, che è creato un pochettino dalla penetrazione nelle cavità dell'orecchio e della mastoide di pelle. Questa pelle, potendo più desquamare, forma una specie di cisti. Sì. Questa cisti non solo erode l'osso, quindi mette a rischio il paziente da complicanze anche importanti, ma è uno dei motivi per cui l'infezione non si risolve. E quindi il marito della signora potrebbe avere delle recidive infettive. Quindi, bisogna fare questo esame che permette di vedere chiaro esattamente che cosa c'è. E il secondo passo è, una volta accertata la presenza o meno del colesteatoma, se non c'è, va comunque chiusa la perforazione chirurgicamente, cioè si effettua un intervento di microchirurgia che ci consente non solo di richiudere la membrana timpanica, ma anche di ripristinare eventualmente la funzione se per esempio c'è stata un'erosione della catena ossiculare. Oggi noi sia con materiale biocompatibile sia con l'utilizzo dei resti degli ossicini del nostro orecchio possiamo ricostruire una continuità tra la membrana timpanica e l'orecchio interno e quindi consentire la trasmissione del suono. Oggi è riuscita a fare grandi cose sull'orecchio, veramente professor Leone. Veramente straordinario. Che hanno dello straordinario. Fausto da Bergamo, buongiorno. Buongiorno, grazie per l'ospitalità. Volevo chiedere il mio caso un po' come quello che ha elencato la signora prima. Io sì. Sono 49 anni, però praticamente da un orecchio non sento assolutamente. Sentirò il 15%. Sì. Sono stato operato ripetutamente, le ultime operazioni le ho subite 7-8 anni fa per ricostruire il timpano e via dicendo, però praticamente si è formata, come dice il medico, una massa talmente spessa che non è possibile, diciamo, farlo funzionare. Poi avevo sentito parlare di microchip che si potevano mettere, diciamo, sul nervo acustico e via dicendo. Vorrei sapere se è realtà questa. Se è realtà qualcosa. Oppure dobbiamo aspettare. Grazie Fausto per una bella domanda. Professor Leone. Allora, domanda interessante, cercherò di essere il più breve possibile. Allora, per quanto riguarda l'orecchio del signor Fausto, quello già operato, dove il chirurgo ha ritenuto non più necessario reintervenire per la ricostruzione ossiculare, in quel caso lì presumo che abbia un'ipocusia trasmissiva, in quel caso lì è possibile utilizzare una cosiddetta protesi impiantabile, cioè si utilizza una protesi acustica, quindi comunque ad amplificazione, che può essere impiantata per esempio nell'osso e consente un buon recupero uditivo. Per quanto riguarda i chips esistono e sarebbe l'impianto cocleare, ma questo impianto cocleare è riservato esclusivamente a quei pazienti che hanno una sordità bilaterale che non può usufruire o non può beneficare di una protesi tradizionale. Quindi questi microchips che vengono impiantati non fanno al caso del nostro assolutamente amico? Assolutamente no, mentre una protesi impiantabile, oggi esistono le protesi acustiche impiantabili, potrebbe essere utile per il signor Fausto, visto che la chirurgia si è dovuta fermare. Abbiamo Anna Maria che ci chiama dalla provincia di Modena. Buongiorno Anna Maria. Buongiorno e complimenti per questa grossa trasmissione, questo tema di oggi che è molto importante. Dunque, io è già un po' di tempo che soffro appunto vengono spesso questi cerumi questi tappi di cerumi nelle orecchie. E mi ha detto il medico il condotto, dice c'è da toglierlo o con delle gocce o con dello spray e di usare poche cotton fioc. Volevo sapere come devo ancora iniziare. Se come si deve comportare Anna Maria. Professor Leone, ultima domanda e risposta ad Anna Maria, che così rispondiamo anche ai tanti sms che hanno trattato proprio questo tema. Grazie. Assolutamente. Allora, Vorrei fare una premessa: il cerume viene prodotto dalle ghiandole ciruminose dell'orecchio esterno e ha una funzione protettiva, quindi non è sempre un fatto negativo avere del cerume. È chiaro che quando questo cerume occlude completamente il condotto va asportato. Bisogna sempre utilizzare delle sostanze emollienti, evitare traumatismi sulla membrana timpanica, ma ovviamente va asportato. Quando noi abbiamo una situazione in cui questo cerume è particolarmente denso, potrebbe essere utile, a scopo preventivo, utilizzare delle gocce emollienti, non solo come quando ha suggerito, ma anche periodicamente. Allora, professor Leone, io la ringrazio per essere stato con noi, grazie dei preziosi consigli, le auguro una buona giornata e se fa un'immersione, una buona immersione. Altrettanto a voi tutti. Grazie, buona giornata. E adesso, prima di salutarci, facciamo un salto in cucina, dove davanti al nostro freezer ci aspetta la professoressa Porrini, docente di alimentazione e nutrizione umana all'Università di Milano. Professoressa, buongiorno. Buongiorno a voi. Professoressa, alimenti sotto zero, istruzioni per l'uso. Iniziamo a fare una distinzione tra alimento surgelato e alimento congelato. La surgelazione è un vero e proprio processo industriale in cui l'alimento viene portato alle temperature di congelamento, quindi al di sotto dei 18 gradi, meno 18 gradi, in tempi molto veloci, magari dopo aver effettuato anche dei trattamenti di scottatura dell'alimento stesso per mantenerne le caratteristiche fisiche e sensoriali. Il congelamento invece è una tecnica di abbassamento della temperatura più lenta che noi possiamo utilizzare, diciamo, anche a casa nostra con il nostro freezer, in cui appunto l'alimento non raggiunge le stesse temperature del surgelato e comunque le raggiunge più lentamente. Ci sono delle regole da seguire? Innanzitutto un consiglio: evitiamo di utilizzare questa tecnica domestica in modo eccessivo. Può andare bene congelare i prodotti raccolti nel proprio orto per mantenerli per l'inverno, forse è inutile acquistarli dal fruttivendolo e poi congelarli. Regole generali sono queste: innanzitutto congelare sempre piccole porzioni, quindi se sono le verdure farne sacchetti piccoli, se sono la carne farne già delle fette e via dicendo. Non riempire il freezer con i prodotti da congelare, congelarli poco alla volta cercando di lasciare loro un certo spazio nel freezer. Leggere sempre le istruzioni che accompagnano i freezer, perché spiegano anche la tecnica di congelamento. Quando si congela la verdura è importante scottarla prima, anche se lo facciamo a casa, perché in questo modo disattiviamo gli enzimi che altrimenti fanno diventare le verdure più molli e nere. Professoressa, dal freezer passiamo alla pentola, alla tavola, parliamo di scongelamento. Le do quattro opzioni, lei mi promuove o mi boccia. Nel lavello? Bocciata. A temperatura ambiente? Bocciata. Risalgo, nel forno a microonde? Promossa. In frigorifero? Promossa. Bene, allora due sono... Qualche volta si può anche non scongelare, mi permetto di dire. Infatti, cuocere. In padella, direttamente? Sì, promossa. Promossa, allora guardi, passo l'esame, 3 su 2. Senta, un alimento scongelato, entro quanto tempo deve essere consumato? Regole precise non ci sono, il più velocemente possibile. Quando io ho fatto scongelare l'alimento che ho congelato io nel mio freezer, oppure un alimento che ho già comprato surgelato, posso, dopo averlo cucinato, magari penso ad un ripieno con spinaci e carne, ricongelarlo o sbaglio? È meglio non ricongelarlo. Sì. Se è stato cucinato, in alcuni casi abbiamo operato una buona eliminazione della flora microbica, tuttavia di solito si consiglia di non ricongelare mai, neanche se l'alimento è stato cucinato. Grazie professoressa Porrini per essere stata con noi, le auguro una buona giornata. Altrettanto a voi. E buona giornata a voi che avete seguito il programma, appuntamento a domani dopo il GR delle 11. Un saluto da Nicoletta Carbone.